notte e giorno. Tu sei la sola, soltanto tu, sotto la luna e sotto il sole. Se sei vicina a me oppure lontana, non importa, tesoro, dove tu sia. Io penso a te notte e giorno. Notte e giorno. Perché questo desiderio di te mi segue ovunque io vada? Nel ruggito del traffico, nel silenzio della mia camera solitaria. Io penso a te notte e giorno. Notte e giorno, giorno e notte. Qualcosa brucia dentro di me e il mio tormento non avrà fine finché non potrò tutta la vita amarti. Giorno e notte. Notte e giorno. Thank you. Thank you.